L'argomento di giornata, per quanto mi riguarda, visto che siamo vicino alla Pasqua, sono gli easter egg. Dunque, prima di introdurci però nella fase degli easter egg, che vi spiegherò poi con comodo di che cosa si tratta, io vorrei aprire la consueta rubrica inerente le notizie però più calde del mondo dei videogiochi, o almeno quelle che sono successe nel corso di questa settimana. Allora, partiamo dal dire che la settimana scorsa è successo un fatto abbastanza importante, che Baldur's Gate, noto gioco che quest'anno ha vinto il premio di gioco dell'anno, i fan sono rimasti abbastanza colpiti o scioccati da un annuncio fatto, diciamo, dal capo di Larian Studio, ovvero Sven Winkle, che ha dichiarato sostanzialmente che nonostante il gioco fosse un gioco appunto importante, con un brand fondamentale, il terzo capitolo appunto della serie di Baldur's Gate, che per i neofiti, diciamo, per chi non è avvezzo al mondo dei videogiochi, Baldur's Gate è una serie che si rifà sostanzialmente al magico, chiamiamolo mondo, di Dungeons and Dragons, quindi insomma un mondo di giochi RPG, e che quest'anno ha vinto appunto un premio prestigioso come appunto i Game Awards, che sono sostanzialmente gli Oscar del videogioco. Attenzione, noi la settimana scorsa abbiamo ospitato Jacopo Mascolini, che ha parlato del suo Game Awards italiano, però che è un'altra storia. Però comunque, questa è una piccola, è sempre un premio, questa è una piccola digressi. Diciamo che se volete sentire l'intervista, tra l'altro la trovate negli archivi appunto delle puntate di Elisten, sempre nei social. E dunque, tornando all'argomento principale, Sven Winkle ha sostanzialmente dichiarato che è onorato di aver vinto, cioè di aver vinto questo premio e di aver dedicato molta parte, diciamo, della sua vita con lo studio e con i ragazzi che ci hanno lavorato sopra, però non è particolarmente convinto nel voler rilanciare il gioco attraverso delle espansioni, DLC o addirittura seguiti. E questo ha lasciato intendere, ha fatto capire, diciamo, alla community che sostanzialmente l'Arian Studios ha deciso di allontanarsi da appunto il brand di Baldur's Gate, nonché Dungeons & Dragons. Dunque, di conseguenza, un eventuale quarto capitolo, o comunque anche le espansioni DLC e simili, verranno gestiti in futuro da uno studio che non sarà appunto l'Arian Studio. E questa è una notizia appunto abbastanza sconvolgente, perché comunque sia è un gioco che appunto, come ho detto, quest'anno ha vinto un premio prestigioso, e i giocatori e le community non si aspettavano questo colpo, insomma, così particolare, queste dichiarazioni così, insomma, focose. Però, come ogni giovedì, sui PC, diciamo, degli utenti di tutto il mondo, Epic Games tende a fare dei regali, o comunque a regalare dei videogiochi a titolo gratuito ogni settimana. Epic Games ha appunto un launcher che si può scaricare gratuitamente tramite internet, cercando appunto Epic Games Store. Un leaker, ovvero una persona di quelle che sostanzialmente è dentro il mondo dei videogiochi, ma riesce a percepire tramite rumor o comunque notizie uscite, emerse da altre fonti, è riuscito a capire che non questa settimana, ma bensì la settimana prossima, quindi quella che andrà dal 4 all'11 aprile, sembrerebbe che probabilmente Epic Games regalerà un gioco importante, ovvero stiamo parlando di The Other Wars, e che tra l'altro includerà non solo la versione base del gioco, ma anche le espansioni inerenti appunto al titolo. E pure questa, insomma, è sicuramente una grande notizia, in quanto comunque è un titolo abbastanza prestigioso. che è stato donato tra l'altro durante le ferie natalizie, ma evidentemente Epic se vorrà riregalarlo è perché c'ha comunque una grande base di utenti che magari non sono riusciti in quel periodo a riscattare il gioco e dunque se sarà vero, perché poi comunque è un leak, quindi non è detto che possa essere vero, però molte fonti riportano che molto probabilmente, ribadiamo dalla settimana dal 4 all'11 aprile, sarà disponibile questo gioco. Ma prima di introdurre la penultima notizia di giornata, io vorrei farvi sentire un tema che magari vi potrà ricordare qualcosa. Diciamo per gli ascoltatori o le ascoltatrici più attente, probabilmente questo tema l'avranno riconosciuto abbastanza velocemente. Il tema in questione è il tema di Spyro e la notizia appunto di cui vi vorrei parlare riguarda proprio Spyro. Perché? Perché a quanto pare, sempre tramite dei rumor, uno youtuber canadese sostiene che praticamente ci sarebbe in corso lo sviluppo di un quarto capitolo del videogioco che molto probabilmente, diciamo, chi ha amato l'epoca della PlayStation 1 avrà avuto modo di giocarci. E dunque il titolo in questione sarebbe il quarto, appunto, il quarto episodio, attualmente in sviluppo presso Toys for Bob, che è comunque uno studio importante, si è curato in passato anche di remake di altri giochi, come ad esempio la serie di Crash Bandicoot. E in questo caso la fonte sostiene che praticamente da quando Toys for Bob, che era uno studio legato principalmente a Microsoft, che aveva acquisito appunto Activision, da quando si è separata, avendo, diciamo, più libertà creativa, ha deciso di investire il proprio tempo su questa nuova IP, o nuova, o perlomeno su questo nuovo capitolo. E quindi ci sarà un nuovo approccio in merito appunto a questo nuovo capitolo. L'uscita per il momento, trattandosi di un rumor, non è ancora ben stabilita. E io direi di passare all'ultima notizia di giornata. L'ultima notizia di giornata è semplicemente inerente sia ai videogiochi che anche al mondo del cinema, perché il protagonista è un famosissimo attore che penso tutti quanti abbiate imparato ad amarlo, specialmente adesso che al cinema, vabbè, purtroppo, cioè, diciamo, noi abbiamo la versione italiana doppiata da Fabio Volo, che comunque è un grande doppiatore. Però gli americani e il resto del mondo invece hanno la fortuna di avere la versione originale di Jack Black che doppia il panda di Kung Fu Panda. Ecco, diciamo, durante un'intervista inerente il tour di promozione del film, Jack Black ha voluto rispondere a una domanda che sostanzialmente riguardava il mondo dei videogiochi e siccome lui è comunque un interprete molto importante per quanto riguarda appunto sia il mondo del gaming che il mondo dei film, ha avuto a che fare ad esempio recentemente con il film di animazione di Super Mario dove doppiava Bowser. Uscirà prossimamente un film su Borderlands, dove comunque anche lì avrà una parte. Si parla addirittura di un film di Minecraft, sempre in sviluppo, dove anche in questo caso ci dovrebbe essere Jack Black a lavorarci. Quindi, insomma, in poche parole, questo attore americano, per quanto riguarda il mondo del gaming, sta dando tanto, così come anche dal punto di vista musicale. Ricordo anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che Jack Black ha anche addirittura un canale YouTube dove ogni tanto carica video appunto inerenti ai videogiochi. Beh, sostanzialmente lui è rimasto colpito dal fatto che attualmente non sono disponibili dei film su videogiochi del calibro come Red Dead Redemption o GTA. Quindi sostanzialmente vorrebbe che in futuro potessero venire sviluppati dei film inerenti a questi due grandi brand che comunque sono fondamentali. E in merito a tutto ciò, non sappiamo se effettivamente in futuro verranno accolte le parole di Jack Black per sviluppare un eventuale film su Red Dead Redemption o GTA. Anche perché comunque la complessità per fare un film inerente proprio due titoli così importanti penso che siano evidenti a tutti. Però per omaggiarlo ho deciso comunque di selezionare una canzone che lo stesso Jack Black ha fatto con i suoi Tenacious D, che è inerente al mondo dei videogiochi. Are you plugged in? Yeah. All right, ready? One, two, or one, two, three. I don't play video games no more. I never play video games. Except for a little bit of God of War. I never play video games. Maybe once in a while, a little bit of Fallout 4. But that's okay, not right now. I got things to do. Cause I don't play video games no more. Never play video an adult thing. That's not a game at all. That's like fucking Shakespeare. Freaky. That's it. That's the one. It's on the album. E ritorniamo in diretta su Elisten. Sono Andrea, questo era il tema di Jack Black chiamato Video Games, tratto dal suo gruppo che si chiama Tenacious D. Dunque, tornando invece al tema di giornata, come ho introdotto a inizio puntata, il tema di giornata sarà inerente a una tematica, diciamo, abbastanza buffa e inusuale nel mondo dei videogiochi, ma così come anche nel mondo del cinema, ovvero gli easter egg. Cosa sono gli easter egg? Sostanzialmente gli easter egg sono degli elementi nascosti, dei messaggi segreti o delle sorprese che gli sviluppatori di videogiochi, registi di film o diciamo altri creatori inseriscono all'interno dei propri lavori. Questi easter egg sono spesso, diciamo, destinati a essere scoperti sostanzialmente dagli utenti stessi che giocano i videogiochi o dagli spettatori al cinema, come una sorta di sorpresa aggiuntiva o come omaggio, diciamo, a una particolare opera, persona o evento. Assumono diverse forme. E fanno riferimenti anche, potrebbero fare riferimenti anche ad altre opere o camei di personaggi, sequenze segrete, insomma, messaggi nascosti all'interno del codice di gioco dell'ambientazione. O comunque ci può essere comunque molto altro. Sempre all'interno dei videogiochi, gli easter egg sostanzialmente possono essere scovati all'interno delle mappe da personaggi segreti, oppure ci sono dei messaggi criptati, o possono esserci delle sequenze di azioni specifiche che sbloccano magari dei contenuti extra. Per quanto concerne invece i film, come ho già detto, potrebbero essere dei cameo di attori particolari o dei riferimenti a opere passate di un determinato regista o di un determinato attore, o magari dei dettagli nascosti proprio all'interno di alcune scene. In poche parole, gli easter egg aggiungono un elemento di divertimento e mistero alle opere e incoraggiano gli spettatori e i giocatori a esplorare di più per approfondire il contenuto dei loro lavori, quindi che sia videogioco o un film, insomma, l'immersione deve essere totale. E fare una classifica, ammetto, sui migliori easter egg da scovare nel mondo dei videogiochi e del cinema non è stato semplice perché comunque ne esistono a bizzeffe di diversi tipi, possono essere, diciamo, buffi, come possono essere, diciamo, a tema horror, oppure, non lo so, oppure sexy, insomma, ci sono veramente, c'è di tutto, c'è un mondo all'interno degli easter egg. E quindi io direi di introdurvi il primo easter egg, che è un easter egg che posso tra l'altro introdurre a livello proprio musicale, perché è letteralmente una musica. E parliamo sostanzialmente di una serie di videogiochi molto famosa, ovvero The Legend of Zelda, dove all'interno di un videogioco come Ocarina of Time è possibile notare un tributo che la stessa Nintendo ha voluto fare a delle opere di sua stessa creazione. Ma proprio perché non voglio rovinarvi la sorpresa, diciamo che vi manterrò in onda, un piccolo pezzo per farvi capire meglio di che cosa si tratta. Allora, io non so se avete notato qualcosa, qualche somiglianza, diciamo, tra questi temi che ho voluto mettere appunto in onda, ma sostanzialmente parliamo di tre videogiochi diversi. Il primo è Ocarina of Time, praticamente appena un giocatore si approccia al videogioco, nel tema principale del gioco appare appunto questo tema molto soave, molto, molto tranquillo. Ma in realtà questo tema soave e così tranquillo proviene da altri videogiochi sempre creati da Nintendo stessa. Nel primo caso, anzi nel secondo caso, il riferimento è alla serie di Super Mario Bros. 3, dove, diciamo, in un punto specifico della mappa è possibile sentire appunto questo tema. Ma il tema addirittura è a sua volta, diciamo, ripreso sempre da Zelda, il che è un paradosso nel paradosso, perché comunque era il tema finale, quello che avete sentito ad 8 bit, è un tema proveniente dal gioco originale di The Legend of Zelda. Quindi questo, diciamo, è stato uno tra i primi, diciamo, easter egg che mi è venuto in mente, che potevo farvi, diciamo, ascoltare per via radiofonica, perché comunque gli easter egg sono divertenti, come dicevo, da scovare, e raccontarli per via radiofonica potrebbe sembrare un po' strano, però proverò a farvi intuire, a farvi capire più o meno di che cosa si tratta. Il primissimo, comunque, easter egg della storia proviene da un videogioco dell'Atari 2600 che si chiamava Adventure, e all'interno del gioco, dove sostanzialmente tu eri un cubetto che per i mezzi, diciamo, un po' primitivi dell'epoca dovevi girare una serie di stanze e risolvere un bel po' di enigmi, insomma, come ho detto, i mezzi dell'epoca davano a disposizione. E nonostante questi enigmi che nascondevano, ad esempio, delle chiavi, o comunque bisognava subentrare in dei labirinti dove non era facilissimo poi così semplice intuire la soluzione su come risolvere, diciamo, determinate situazioni. Alla fine, diciamo, se un giocatore riusciva a completare una determinata stanza trovando appunto la soluzione a questo enigma, scendendo, diciamo, dalla mappa, perché come ho cercato di spiegarvi, diciamo, all'interno di questo videogioco sono presenti più stage messi in una forma, come posso dire, rettangolare, ma, diciamo, è difficile da spiegare per via radiofonica, sarebbe meglio, diciamo, approcciarsi vedendo un video su YouTube per avere, diciamo, un esempio visivo più focalizzante. Però comunque, risolvendo un enigma all'interno del videogioco, sostanzialmente il primo easter egg di tutta la storia dei videogiochi era il nome era il fatto che comparivano le lettere del creatore dello stesso gioco, che praticamente si complimentava in maniera indiretta con il giocatore per essere riuscito a risolvere un enigma. Tornando invece sempre alla serie di Zelda, sempre parlando di Ocarina of Time, esiste un simpatico easter egg che parla appunto che parla sostanzialmente, anzi, che cita sostanzialmente sempre la stessa Nintendo attraverso un giardino un po' particolare. Quando, diciamo, in una fase di gioco, quando si è Link e devi andare a trovare per la prima volta la principessa Zelda, perché Ocarina of Time, per chi non lo sapesse, è un gioco che si basa principalmente sui viaggi temporali, quindi all'inizio c'è tutta una fase in cui tu sei Link da bambino, poi dopo, diciamo, senza fare eccessivi spoiler, ci sarà una fase secondaria dove invece Link sarà Link adulto. Comunque, nella fase in cui si è ancora Link bambino, c'è un punto particolare dove tu devi andare a trovare la principessa Zelda. E la principessa Zelda si trova all'interno del castello di Hyrule e ha una sorta di giardino. In questo giardino è possibile osservare delle finestre. Da queste finestre, voi direte, vabbè, è tutto nella norma. Se uno le osserva, diciamo, con attenzione, è possibile vedere dei quadri. E questi quadri fanno riferimento a personaggi della Nintendo. Quindi è possibile vedere Super Mario, è possibile vedere Luigi, è possibile vedere Bowser. Insomma, personaggi appunto inerenti al mondo di Nintendo. Addirittura, se si spara un colpo con la fionda in direzione di quella finestra, interviene una guardia e questa guardia ti lancerà addosso una bomba, quindi non conviene esattamente infastidire le guardie del castello. Parlando sempre di easter egg, poi vi mando, diciamo, una pausa musicale, io vorrei parlarvi invece in questo caso di un videogioco che si chiama Dying Light. In poche parole, in questo Dying Light, saltando da un tetto, su un tetto, diciamo, nella mappa, è possibile trovare all'interno di un camino un tubo verde. Questo tubo verde richiama un pochetto, richiama l'iconico tubo verde di Super Mario. E la cosa incredibile è che ci si può anche entrare. Entrandoci, in poche parole, si ha la possibilità di rivivere, per quanto in modo un po', diciamo, adattato per il gioco che è, perché comunque non è un platform Dying Light, di rivivere comunque il primo livello ricreato di Super Mario, e con tanto di, diciamo, di finale con la bandierina che ci si può scendere. Insomma, vi invito a vedere se su YouTube o comunque sui social, sicuramente sarà stato caricato da qualcuno, i video inerenti appunto a questo simpatico easter egg. E per omaggiare appunto questo easter egg vorrei mandare questo. Thank you. E torniamo in diretta con questa puntata di A-Listen. Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che il tema della giornata odierna è inerente agli easter egg. Ho voluto omaggiare questo easter egg inerente Super Mario nel mondo di Dying Light e con questo tema un po' che è il tema musicale appunto principale di Super Mario, rivisitato da un gruppo ska che si chiama Scalon, che ringraziamo per il gentile pezzo. Dunque, tornando agli easter egg da citare, alcuni easter egg appunto, come raccontavo, sono divertenti, altri possono essere un pochettino macabri, diciamo, un po' a tema horror o comunque giù di lì. Ho selezionato appunto due o tre easter egg che più o meno contengono dei riferimenti appunto abbastanza macabri. Allora, uno di questi, per quanto potrebbe sembrare anche abbastanza buffo, è inerente al videogioco di Mad Max. In sostanza, in un punto specifico della mappa di gioco è possibile trovare un cadavere, diciamo, di un personaggio un po' particolare, sempre per chi ama il mondo dei videogiochi, ovvero Gordon Freeman, personaggio protagonista della serie di Half-Life. La cosa, insomma, che è un po' divertente ma anche contemporaneamente abbastanza macabra è che ciò che si va a ritrovare È il cadavere sostanzialmente del protagonista, abbandonato da un po' di tempo, vicino a una cassa dove c'è scritto 3. Questo perché a che cosa fa riferimento? Al fatto che probabilmente gli sviluppatori del gioco di Mad Max volevano in qualche modo rendere omaggio, per quanto in modo, insomma, come ho detto, abbastanza macabro, la serie di Half-Life, con la speranza che arrivasse questo ipotetico terzo capitolo che sono in molti ad attendere con ansia, e che quindi, insomma, è stato omaggiato, diciamo, in questo modo un po' particolare. Invece, un altro, diciamo, capitolo sempre inerente degli easter egg un po' orrorifici riguarda il quinto capitolo di GTA. C'è da fare una promessa abbastanza lunga su GTA, ovvero che è uno tra i videogiochi con le leggende metropolitane, penso, più discusse dal capitolo di San Andreas, con gli avvistamenti di Yeti, UFO all'interno del gioco, insomma, tutta una serie di dicerie mai del tutto confermate, o comunque che gli sviluppatori poi magari nei capitoli successivi hanno voluto omaggiare in qualche modo con appunto degli easter egg. Ma in questo caso invece si parla di una storia un po' particolare. Sostanzialmente, in una subquest del gioco è possibile vedere una donna che viene purtroppo uccisa da un assassino in un monte. Cadendo appunto da questo monte, vabbè, insomma, la ragazza purtroppo muore, però è possibile vedere se si avanza, diciamo, nel gioco e si raggiunge esattamente il punto dove è successa questa subquest con questo fatto così scabroso, lo spirito del fantasma di questa donna che ti osserva in modo un po' inquietante. E devo dire che, insomma, la prima volta quando effettivamente me la sono ritrovata di fronte mi ha messo un po' di inquietudine. Però, vabbè, sono degli scherzetti fatti dagli sviluppatori che evidentemente, insomma, si sono voluti divertire in questo modo. Parliamo sempre di un altro famosissimo easter egg. Questa volta è presente in un altro videogioco, ovvero The Witcher 3. Se si esplora sempre un punto della mappa è possibile trovare una chiesa, e all'esterno di questa chiesa sono presenti delle statue che sembrano essere delle statue innocue. Allora, faccio una premessa anche per questo easter egg. Questo, come raccontavo all'inizio di puntata, è un omaggio a una serie televisiva molto famosa che è il Dottor Who. In un episodio della terza puntata, sostanzialmente come ne entità nemiche si trovavano appunto delle statue di angeli inquietanti che sostanzialmente facevano delle cose terribili. Non sto a dirvele perché è una tra le puntate, penso, più iconiche dello stesso Dottor Who, quindi invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a recuperarle senza beccarsi degli spoiler inconsapevoli da parte mia. Ad ogni modo, in The Witcher 3 è possibile vedere appunto all'esterno di questa chiesa queste statue insomma, simili a degli angeli, che quando tu ti giri e ritorni indietro ed esci dalla chiesa, sostanzialmente ti seguono e ti guardano in maniera altrettanto inquietante, seguendoti con lo sguardo. Dunque, diciamo, è un omaggio abbastanza palese a questa puntata della terza stagione, appunto, del Dottor Who, presente all'interno di The Witcher 3. E parlando invece di uno degli easter egg più famosi della storia, appunto, proprio degli easter egg e dei videogiochi, nel capitolo di Doom è presente John Romero, che è sostanzialmente il creatore di Doom, noto FPS in prima persona. E in questo easter egg è possibile trovare all'interno di questa stanza. È presente la testa impalata di John Romero, che è il cofondatore appunto di software, che ti osserva sostanzialmente. È un omaggio piuttosto, come ho detto, inquietante, un po' gore se vogliamo metterla da un certo punto di vista, però è paradossalmente uno tra gli easter egg più iconici della serie dei videogiochi. E per omaggiare appunto questo easter egg ho scelto questo brano che è presente appunto in. E torniamo in diretta. Questa è Radio Eilisten, sulle frequenze di Pirate Radio. Allora, questo era il tema, uno dei temi di Doom, mandato in onda appunto per omaggiare l'easter egg di John Romero, che è uno appunto, come dicevo, degli easter egg più famosi all'interno della storia dei videogiochi. Purtroppo descrivere gli easter egg tramite radio non è esattamente la cosa più semplice, perché gli easter egg andrebbero, come dire, vissuti o comunque osservati per poterli capire meglio o comunque per poterli apprezzare un po' di più. Ad ogni modo, cerco di descrivervi perlomeno quelli che ho trovato più iconici o quelli più divertenti. Ed è il caso di questo prossimo easter egg, che è di una serie di videogiochi altrettanto famosissimi di Ubisoft, ovvero Assassin's Creed. Nel capitolo di Assassin's Creed Unity, nella congrega dove è possibile assistere, insomma, dove ci sono anche gli assassini presenti all'interno del videogioco, In particolare ce n'è uno che, come dire, penso che probabilmente gli sviluppatori avranno deciso di farlo mangiare, di fargli mangiare, diciamo, una pasta e fagioli abbastanza pesante, perché è seduto all'interno di una poltrona, eppure se si sta fermi e si osserva questo personaggio, dalla poltrona farà, anche in maniera abbastanza soddisfatta, dei peti, letteralmente, qui delle puzzette. E si sente proprio il sound effect delle puzzette, quindi è abbastanza strano come easter egg, però contemporaneamente è comico. Io vi posso garantire che la prima volta, quando me lo sono ritrovato di fronte, non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie, perché mi sembrava davvero così assurdo, così strano. Eppure, evidentemente, gli sviluppatori si sono voluti divertire con questo scherzetto, questo inside joke, diciamo, chiamiamolo così. Andando avanti, sempre parlando di easter egg abbastanza sorprendenti e divertenti, una serie di videogiochi horror molto famosa, che è Silent Hill, in uno dei finali del videogioco, se si completava il gioco in una determinata maniera, si poteva ottenere un finale di gioco abbastanza sorprendente. Questo finale di gioco sarà uno spoiler probabilmente per chi appunto non ha avuto modo di giocarlo, però vi dirò, ormai sono passati tanti anni, quindi alla fine credo che se ne possa comunque tranquillamente parlare. E sostanzialmente si scopre che tutta la trama del gioco è dovuta alla follia di uno Shiba Inu, cioè un cane che praticamente controllava da una stanza nascosta il destino dell'intera partita, insomma dell'intero gioco. E niente, il protagonista poi si avvicina a questo Shiba e lo accarezza, e il gioco finisce così, in uno appunto dei finali più strani e controversi che Konami ha deciso di inserire all'interno del gioco. C'è da dire che ovviamente Silent Hill ha dei finali anche molto più seri, e dipende sostanzialmente da come si decide di approcciare il videogioco stesso. Però questo è uno dei finali, diciamo, più pazzeschi e più ridicoli, diciamo, all'interno del brand stesso. E adesso invece vorrei parlarvi, siamo quasi in chiusura di trasmissione, di un altro easter egg inerente a un altro brand importante. Parliamo di Metroid, sempre di Nintendo. In sostanza, se si completava il videogioco al 100%, risolvendo appunto il gioco perfettamente, si scopriva che Samus Aran è una donna. Ora voi direte: vabbè, che c'è di male? Giustamente non c'è nulla di male, però per, diciamo, l'anno in cui uscì, gli anni 80, scoprire che un videogioco basato principalmente in ambienti spaziali, dove appunto si andava in giro a risolvere, insomma, delle determinate situazioni, fosse una donna, sorprendeva sostanzialmente tutti i giocatori, che rivedevano in Samus invece una figura maschile, e invece era una donna. E tra l'altro, se non vorrei sbagliarmi, ma potrebbe essere la prima donna inerente, insomma, il mondo dei videogiochi, se non si conta Miss Pac-Man. Quindi è una degna rappresentante del mondo femminile nel mondo dei videogiochi, e in quanto tale omaggerò la sua figura con questo tema. Thank you. E questa era Brinstar, cover sostanzialmente del tema principale di Metroid, eseguita da Nostalgica, che vi invito a seguire su YouTube. E siamo in chiusura di trasmissione. Vi cito giusto gli ultimissimi easter egg che ho trovato comunque abbastanza divertenti. E l'ultimo easter egg sarebbe inerente a una serie di videogiochi che comunque ha raggiunto un buon successo a livello di mercato, ovvero parliamo di Marvel Spider-Man 2, che è un secondo capitolo appunto della serie di Insomniac, uscito il secondo capitolo lo scorso anno. All'interno di Marvel Spider-Man 2, diciamo, per chi conosce la serie, è possibile giocare nei panni sia di Peter Parker che di Miles Morales. Se si incontrano sia Spider-Man che Miles Morales, è possibile creare una sezione molto divertente che fa riferimento a un saluto presente, diciamo, in una serie famosa di cartoni animati degli anni 60 dedicata appunto all'Uomo Ragno, in cui sia Spider-Man che Miles Morales si salutano indicandosi. Questo saluto fa riferimento anche a un famoso meme che gira su internet ormai da diversi anni. Quindi mi sembrava simpatico chiudere la puntata con appunto questo riferimento a questo easter egg. Ce ne sarebbero stati diversi di cui vi avrei voluto parlare, ma purtroppo il tempo stringe e la chiusura di puntata, diciamo, viene, insomma, segue i tempi. Sappiate che, ovviamente, come ho detto, gli easter egg sono presenti anche nei film. Avevo scelto come diversi esempi film inerenti magari al mondo della Disney. Però siamo appunto in chiusura di puntata e quindi vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio ovviamente Brancaleone per gli spazi dati per registrare la puntata. Vi invito a seguire nei social che sono presenti su Instagram con eilisten.radio, ma se no pure Pirate Radio. Prossimamente aggiungeremo anche Discord qualora si voglia fare delle dirette radiofoniche con anche gli utenti. Niente, vi mando un abbraccio, un saluto, ci sentiamo la prossima puntata e statemi bene.